È uno strumento particolare. Serve a captare le frequenze di altre realtà. È fondamentale per comunicare con chi non appartiene a questo mondo. Ma prima va calibrato.